Buongiorno, innanzitutto saluto le due monelle che sono bellissime e bravissime. Siete mitiche, vi fate impazzire. Una cosa molto ci porti rapida. A ballare, Enrico, invece di dire che siamo mitiche. Dai che abbiamo 30 anni, secondi. Ma sono 35 anni che sono fedelmente innamorato di mia moglie. Ascoltate bene me. Nicoletta, non hai nessuna speranza. Un vero uomo. Buongiorno a voi, care signore. Sono sempre contento di sentirvi. Siete proprio stupende, guardate. Oh, grazie Emanuele. Chiamatemi quando volete, perché di complimenti ne ho tanti. Perfetto. Un vero uomo. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Deborina, mia bella, torniamo insieme ora che l'Epifania tutte le feste si è portata via. Sì, ma le befanine sono rimaste comunque, come puoi vedere. Non a caso non c'ero ieri. Sì, me la sono goduta da sola la nostra festa, però mi sei mancata, quindi sono ben contenta che tu sia ritornata qui insieme a me. Svolazzavo. E anche se ci sembra di essere ancora un po' nel clima natalizio, bisogna ripartire subito col piede giusto e guardare lontano. L'anno nuovo va vissuto. Però non bisogna dimenticarci che dobbiamo fare dei progetti di vita o anche su altre materie, in materia di cuore e anche di denari, e bisogna saper progettare la gestione del risparmio della propria famiglia, un nostro grande cavallo di battaglia. La previdenza, le finanze, insomma. 800 24 00 24, raccontateci subito che progetti avete, piccoli o grandi, per i denari della vostra famiglia: comprare una casa, mettere da parte un gruzzoletto, capire come funziona una pensione integrativa. Ma in generale raccontateci come vedete il nuovo anno e quali sono i vostri buoni propositi. Non fate finta di niente, tutti ne facciamo, anche se siamo molto bravi ad abbandonarli per strada. Chi di noi non si è messo a dieta proprio oggi? 800 24 00 24. Ma non di dieta, ma di progetti altri parleremo oggi. Per fare i progetti, buoni propositi, per fare la dieta, ma anche non solo, per risparmiare ad esempio, ci vuole lungimiranza. Bisogna, come diceva Deborah, saper guardare lontano, e anche noi oggi partiamo proprio dai nostri occhi, che sono indispensabili per guardare da vicino e da lontano. Sai che ti dico? Che io spero che questo 2014 ci faccia l'occhiolino, Nicoletta, a noi, a me, a te e a tutti anche i nostri ascoltatori. Non ci resta allora che partire. Andiamo. Salva Danaio. Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Soldi, soldi, ovvero Papa Braschi, ti danno donne e whisky, salute figli maschi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Allora, hai mangiato l'uva per questo auspicio di denaro? Uva, io l'ho mangiata bianca e rossa perché sì, per non saperne leggere né scrivere ti sei portata in lenticchie. Sicurezza. Sì. Poi ho preso i granini di melograno, ricchissimo di vitamina C, continuate a mangiarlo. Sai che io non ho fatto un bel niente di tutto questo, quindi non lo so, arriverò al 31 dicembre del 2014 povera in canna. No, dai, ho fatto tutto io, quindi dividiamo. Nessun atto scaramantico. E comunque, famiglia e denaro, famiglia e risparmio, naturalmente famiglia e salute. Abbiamo bisogno di tutte queste dimensioni e abbiamo bisogno che tutte queste dimensioni vadano bene perché il 2014 funzioni al meglio. Per quello che riguarda i denari, possiamo impegnare a progettare, fare qualche buon proposito finanziario. Anche in tempi di crisi si può e anzi si deve. È vero, Alessandro Gaetani, autore del blog economiafamiliare.it. Alessandro Gaetani è un esperto molto attento all'educazione finanziaria per famiglie. Buongiorno e buon anno. Buongiorno. Sì, buongiorno, buon anno anche a voi e ai vostri radioascoltatori. Sì, velocemente esordisco dicendo la frase che uso in apertura dei miei corsi. Quando parliamo della gestione dei propri risparmi non esistono banalità. Apriamo così. Infatti, perché quali sono le banalità più ricorrenti nelle quali trattando questo argomento si rischia di cadere, Alessandro? Beh, solitamente le solite cose, non si legge attentamente la documentazione che viene fornita quando si fanno degli investimenti, e non si approfondisce bene, magari anche con esempi scritti e simulazioni, vari termini e clausole che troviamo sui vari contratti, questi possono essere due delle cose, oppure non ci prendiamo il tempo necessario, spesso andiamo di fretta, firmiamo moduli di adesione per scoprire poi dopo che abbiamo firmato cose che non riguardavano la nostra necessità. Ma secondo lei facciamo questo, cadiamo in errore perché siamo pigri, poco informati, distratti, troppo fiduciosi? Non perché abbiamo un problema di vista. un po' di tutto in effetti, ci lasciamo sempre un po' le cose così sul chi va là, non ci confrontiamo, per esempio spesso non ci confrontiamo neanche, le persone non ci confrontano neanche con parenti, con familiari, magari perché qualche parente e qualche familiare è già passato in quell'esperienza con quel prodotto assicurativo, finanziario e quant'altro, e può darci dei chiarimenti, degli aiuti, dei suggerimenti. E poi sì, ci aggiorniamo poco, evidentemente in materie economiche sono un po' ostiche, esatto. E ci aggiorniamo poco. È un tema con il quale per la verità facciamo fatica a relazionarci, e soprattutto è un tema che difficilmente prendiamo, come dire, per confrontarci con gli altri, perché c'è sempre un po' di pudore quando si affronta la questione economica personale. Allora noi iniziamo subito a chiedere ai nostri ascoltatori, che ci risponderanno in tantissimi all'800 24 00 24: scegliete un obiettivo, per il momento uno solo, perché non credo che sia il caso di mettere troppa carne al fuoco, per la vostra economia familiare di questo 2014. Accendete un mutuo, fate un piccolo investimento, studierete un piano di previdenza integrativa, farete il punto sui costi della vostra casa. Noi leggeremo il vostro buono proposito e in cambio vi daremo i consigli per naturalmente realizzarlo insieme ad Alessandro Gaetani. E allora intanto ci può anche raccontare, tra l'altro, Gaetani, che cos'è economiafamiliare.it? Possiamo trovare già qualche informazione per cominciare a prendere confidenza con gli argomenti economici che come dire, non ci piacciono troppo, Gaetani? Sì, io da 2008 che mi occupo di educazione finanziaria, attraverso il mio sito appunto www.economiafamiliare.it, che attraverso i corsi che propongo e tengo per le associazioni, gli enti locali eccetera. Pertanto diciamo che il target a cui mi rivolgo sono principalmente le famiglie e i cittadini in genere. E beh, diceva dell'educazione finanziaria. L'educazione finanziaria oggi è sempre più importante per far sì che il cittadino, nelle sue diverse vesti che indossa nella vita di tutti i giorni, quindi risparmiatore, assicurato, debitore e quanto, sia più informato e formato, a fine di acquisire quella consapevolezza che gli permette poi di fare le domande giuste all'interlocutore quando gli propone di investire i propri risparmi, piuttosto che assicurare la propria vita, piuttosto che sottoscrivere un mutuo. E quindi fa prendere al cittadino delle decisioni economiche e finanziarie in prima persona. Quindi insomma il tema è che l'educazione finanziaria va come dire, presa con naturalezza, con tranquillità, perché non è che dobbiamo diventare i più grandi economisti del mondo, ma solamente gestire bene appunto l'economia della nostra famiglia. Dobbiamo, come si dice, imparare a vederci chiaro. Occhi neri, occhi neri, assoluti e sinceri, occhi amati e sognati, occhi desiderati, la bellezza è cattiva, la mia strada non ci arriva. Il mio amore non sa perché. Oggi guardiamo lontano, guardiamo il 2014 che è davanti a noi, ma io direi, Deborah, invitiamo i nostri ascoltatori a raccontarci che cosa state guardando, che cosa guardano mentre ci ascoltano. Volete provare a raccontarcelo in 140 caratteri? Twittiamo, twittate, fateci sognare, basta un tweet. Insomma, oggi vediamoci chiaro per le nostre finanze, ma i nostri progetti, i nostri investimenti, ma anche per la nostra vista. Proviamo a vederci chiaro. Ma vederci chiaro è un problema di decimi o di diottrie? Lo chiediamo al nostro dottor Antonio Scialdone, primario al Fettebene Fratelli di Milano, che è qui in studio con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi. E buon anno naturalmente anche a lei. Naturalmente, adesso sono fra due donne. Che hanno il comando. Ha uno sguardo un po' birichino, insomma. Ecco, a proposito di sguardo, di guardare, no? Quindi sì, certo, è contento. Essendo un oculista. Esprime la sua soddisfazione. Beh, quindi sono un atteggiamento professionale stamattina. Perfetto. Perfetto. Decimi e diottrie, ambedue. Spesso li confondiamo nel parlar comune. In realtà indicano due cose, due aspetti diversi della visione. Mentre il decimo è la grandezza di quello che stiamo guardando, delle letterine che ci fa vedere, più decimi, più piccolo vedo lontano. Normalmente la vista viene data in 10 decimi perché quando vado dall'oculista guardo la letterina, il rigo più sotto che è quello più piccolo. In realtà nelle persone che non hanno difetti di vista e hanno degli occhi, come dire, perfetti, si può arrivare fino addirittura a 16 decimi. Una super vista. Esatto, come quelli che dicono io ho sempre avuto una vista d'aquila. Alcune persone effettivamente ce l'hanno. L'altro aspetto invece sono le diottrie. Le diottrie che sono una misura invece dell'occhiale con cui l'oculista mi fa vedere 10 decimi. Se ho una vista perfetta l'occhiale sarà zero. Certo. Se io sono per esempio miope potrò avere 2 diottrie, 3 diottrie o 3 gradi come viene detto comunemente eccetera. Quindi io posso avere un'ottima vista e vedo i miei 10 decimi con 3 diottrie di miopia, oppure il mio amico che non è miope vede 10 decimi senza occhiali. 2 aspetti della stessa cosa. 800 24 0024, il dottor Scialdone è pronto per rispondere alle vostre domande, ai vostri dubbi. Debora ha detto, speriamo che l'anno ci strizzi l'occhio. E infatti l'occhiolino lo strizzerà. Hai adocchiato giustamente lo stesso messaggio che ho visto io. Di Mauro. Sperando che non sia un corpo estraneo. No. No, Mauro è molto romantico invece. Mauro da Bergamo ci scrive che l'occhiolino lo strizzerà a me e alla mia futura mogliettina. Ci mancano 54 giorni, pensa, conta i giorni, fa il countdown così con questa ansia, ma positiva naturalmente. Modestamente non vedo l'ora, ovvio che da oggi dieta ferrea, non potrò più guardare cibi goduriosi e altro. Posso fare una domandina solo al volo ad Alessandro Gaetani? Sì. Perché tra tutti gli obiettivi economici che abbiamo indicato all'inizio della nostra trasmissione e sui quali potranno mettersi alla prova quest'anno i nostri ascoltatori e non solo, Gaetani, non abbiamo citato per esempio il matrimonio, ma anche quello magari un bel impegno economico da non prendere sotto gamba. Le capita anche di dare suggerimenti a famiglie su questo? Sì, investimenti immobiliari sia per l'acquisto della casa, del nido dell'amore, no? Del nido dell'amore in cui andare a condividere. È un po' un poeta anche lui. E certamente poi tutto il resto, no? L'arredamento, le stesse spese del matrimonio. Per esempio c'erano diverse ricerche che parlavano di finanziamenti ad hoc per le spese del matrimonio, soprattutto in alcune zone d'Italia è molto usato come strumento di finanziamento per un matrimonio da favola. E quindi insomma attenzione anche, non cominciamo già ad indebitarci all'inizio della nostra avventura matrimoniale, perché sennò qua è altro che, come dire, guardare e avere la vista lunga sugli obiettivi della vita insieme. Nicoletta. Ma Alessandro Gaetani porta gli occhiali, ci vede bene? Lui è giovane. Non porto gli occhiali, però sono discromatico. Discromatico, questa... c'entra? Che cosa vuol dire? Vuol dire che ha un'alterazione della capacità di vedere i colori correttamente. Che non è come essere daltonici. Ma tanto il sole 24 ore è rosa, quindi l'importante è che veda quel colore lì. La radio non bisogna guardarla, Gaetani, quindi lei sta a posto. Ecco. Qua. Noi oggi guardiamo lontano, questo è un po' il tema della puntata, ma guardare lontano, cari amici, è un ottimo esercizio, perché aiuta anche a rilassare lo sguardo, perché è una sorta di stretching che non può che farci bene. Dottor Scialdone, così come per la nostra postura, anche per i nostri occhi, cambiare ogni tanto prospettiva può essere d'aiuto e soprattutto ricordarci, per chi sta spesso davanti al monitor, di ammiccare, fare l'occhiolino. Sì. Dottor Scialdone. Sentiamo un po' questa, me la voglio sentire tutta perché ci interessa molto da vicino, no? Certo. I monitor sono fra i più grossi nemici della rilassamento degli occhi, sono molto molto affaticanti perché spesso ci costringono a guardare per delle mezz'ore o delle ore magari con attenzione, e l'attenzione al monitor non fa, giustamente come dice Nicoletta, ammiccare. Vuol dire che la superficie dell'occhio pian piano si secca e questo produce al termine di una giornata di lavoro di molte ore bruciore, fastidio, occhio rosso, il rosato. Ci sono tantissime persone ormai che passano la vita ai monitor. Un suggerimento potrebbe essere non solo quello di ammiccare, ma un paio di volte nel corso della giornata lavorativa di fare quello che si chiama palming. cioè una sorta di rilassamento, mettendosi anche alla scrivania, gomiti sul tavolo, chiudere gli occhi, appoggiare le palme aperte senza premere. Senza occhiali, naturalmente. Beh, se no dopo il vederci chiaro potrebbe essere un problema, effettivamente. È spiritosa stamattina, è in forma. E quindi stare qualche minuto a girare gli occhi lentamente e al buio, ovviamente, perché gli occhi sono chiusi. Questo è un esercizio che rilassa parecchio. Io volevo sapere, noi che ormai portiamo gli occhiali, io li porto per leggere perché le braccia, se no devo allungarle troppo. No, noi che ormai, io li porto da 30 anni. Comunque, allora, siamo in questo studio, siamo tutti occhialuti. Volevo chiederle, dottor Scialdoni, ci sono degli occhiali, a proposito di ginnastica, di stretching, di riposo, che hanno dei forellini. Ah, sì. E sono... I Raster Brillen. Bravo. Sono degli occhiali. Questo nome tedesco che praticamente sta a indicare questi occhiali che hanno dei buchini al posto delle lenti. Esatto, no? Al posto delle lenti sono fatti sostanzialmente di due piattelloni di plastica traforata come uno scolapasta, né più né meno. E tutti questi forellini fanno da foristenopeici, si dice, perché aumentano la profondità di campo, come quando si chiude l'obiettivo di una macchina fotografica. Quando ne faccio tanti mi consentono anche di ricostruire tutto il mondo. Se lo guardo attraverso un buchino solo, guardo come attraverso un cannocchiale. In realtà, con tutti questi buchini, e chi ha un difetto di vista, e anche i presbiti, per esempio, riescono a vedere meglio senza occhiali. È un metodo un po' per rilassare la vista per chi è, come dire, allergico al portare l'occhiale. Non migliora la vista, perché il difetto quello è, quello rimane. Poi non so se sia meglio andare in giro con uno scolapasta davanti agli occhi piuttosto o andare dall'oculista o andare dall'oculista. Prescrivere delle lenti. 800 24 00 24, un numero verde per vedere lontano e quindi per fare anche progetti, come hanno fatto i nostri ascoltatori che sono in linea con noi. Michele da Bologna e Ennio da Roma. Andiamo subito a Bologna, perché chi si chiama Michele, come io dico sempre, ha la precedenza su tutti, visto che si chiama come mio nipote, e quindi buongiorno e buon anno al nostro ascoltatore bolognese. Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno, buon anno, auguri, grazie. Sì, io sono in una situazione un po' difficile, nel senso che ho fatto l'intervento metà novembre per togliere astigmatismo e miopia. Non è stata una scelta felice. Astigmatismo e miopia. Mi scusi? Quante diottrie aveva? Guardi, sull'occhio destro, sinceramente, di precisione, però andiamo sui due o tre, insomma, e poi l'altro sotto i cinque, ecco, il sinistro un po' più alto, ma sotto i cinque comunque. Ecco. Ecco, dopo 10 giorni dall'intervento sono venuti fuori degli effetti collaterali. Sull'occhio sinistro, Lampetti, moschini, vero Michele? Ecco, già capito. Io ho capito, e immagino che abbia capito anche il dottor Scialdone. A volte, proprio per vederci chiaro, e probabilmente qualcuno dei nostri ascoltatori l'avrà progettato per quest'anno, ci si corregge attraverso un'operazione di chirurgia rifrattiva un disturbo visivo, ma a volte i risultati non sono quelli sperati e si avvertono di quei problemi che vengono così descritti dal nostro ascoltatore, come alcuni dicono aloni intorno alle luci, lampetti, una visione che diventa un po' faticosa. Come mai? Ma questo può dipendere da vari fattori. Sostanzialmente tutte le chirurgie hanno degli effetti, possono avere alcuni effetti collaterali. Nel caso del nostro ascoltatore non mi sembra che lui dica che non ci vede bene. Dice che vede queste lucine, queste cose qui. Adesso mi domando se lui ha fatto un intervento tipo che si chiama LASIK, cioè con una macchina che taglia la cornea, cioè, ove fosse così. Per esempio, la pressione esercitata dalla macchina per tagliare la cornea, per fare il coso, può dare delle alterazioni del vitreo che possono residuare come moschine, eccetera. Possono restare? Ridursi, ma in realtà le moschine, come noi sappiamo, sono un problema semi-universale con o senza laser. Parliamo di moschine, ma parliamo anche di vermicelli, filamenti, perché qua esatto. Si apre un mondo, delle forme sono strane. Esattamente, quindi sono due cose che però non dicono che l'intervento non è andato bene, ma è un intervento, presumo, spero, andato bene, con qualche residuo che magari il nostro ascoltatore avrebbe comunque potuto nel corso degli anni avere lo stesso. Mm-hmm. Prima di andare da Ennio da Roma, giusto Deborah, quindi la raccomandazione è, se volete, se pensate di sottoporvi ad un intervento di chirurgia refrattiva, chiedete bene al vostro medico. Teniamo presente che quali possono essere poi le conseguenze di questo intervento ed eventuali effetti collaterali, che non si chiamano così, ma insomma, rende bene l'idea. Presente che nel 50% dei casi la chirurgia refrattiva o la richiesta chirurgia ha una controindicazione. Quindi abbiamo una probabilità. Chiediamolo. Sì, allora andrei ad Ennio da Roma, perché ritorniamo un po' ai nostri progetti in materia finanziaria che stiamo analizzando insieme al nostro esperto di educazione finanziaria, che è Alessandro Gaetani. Adesso sentirò il quesito appunto che ci pone il nostro ascoltatore, ma il presupposto della sua domanda è questo: ammettendo anche che noi così ci mettiamo di buona lena e ci mettiamo su tutti i documenti, no, che in qualche maniera ci danno la rappresentazione di come gestiamo le nostre finanze, quindi l'estratto conto, il documento informativo di un prodotto di investimento, anche con tutta questa nostra buona volontà non è che poi le cose vadano tanto bene, perché può essere che incappiamo in documenti assolutamente incomprensibili, e questo è un po' il tema che voleva porre Ennio da Roma. Quindi con tutta la buona volontà e lo sforzo di lettura, Ennio, poi che succede? Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno, innanzitutto auguri e complimenti per la trasmissione. Anche a lei, Ennio. Senta, volevo dire al dottor Gaetani che una persona normale, media, ce la può mettere tutta il controllo di quando fa un investimento, roba del genere, sia delle pensioni integrative o finanziarie, oppure quando chiede un prestito. Ma le nostre associazioni se lo sono mai chiesto? Chi riesce a interpretare quei contratti scritti talmente piccoli? E poi io credo che ci vorrebbe un legale, un esperto finanziario ogni volta che una persona va a fare un investimento. È vero. Perché non si riesce ad avere dei contratti, dei cose informativi, dei modelli informativi semplici, con poche parole e poche clausole? È una bella domanda questa, una bella scommessa. E tra l'altro, Alessandro Gaetani, in realtà il problema è che qualche volta un po' i soggetti che propongono strumenti di investimento e prodotti di investimento devono attenersi a delle normative molto stringenti in materia di comunicazione, e teoricamente devono proporre appunto agli sottoscrittori di strumenti di risparmio tanta di quella documentazione che deriva anche un po', adesso introduciamo un altro tema un po' complicato per gli ascoltatori, ma è bene che lo sappiano, la MiFID, no? Hanno degli obblighi gli intermediari. Certamente, diciamo che negli ultimi anni molto è migliorato dal punto di vista della trasparenza finanziaria degli intermediari, e certo è che laddove la documentazione fornita poi però non aiuta a comprendere pienamente ciò che si deve fare, è meglio non investire, chiaramente, e se poi non riusciamo a deciderci sulla scelta dell'investimento fatto, investiamoci solo una piccola parte. Per esempio, si può ipotizzare di cominciare con una piccola parte del proprio patrimonio per evitare di subire grosse perdite. Certo. Questo sì, però la trasparenza è aumentata recentemente. È vero, però anche dopo i casi di risparmio tradito, la Consob ha imposto anche agli intermediari, appunto. Ma tra l'altro, Gaetani, direi anche un'altra cosa: adesso magari non so se Ennio si fa seguire nei suoi investimenti da un promotore finanziario, ci sono molti risparmiatori fai da te, ma a meno che non si verifichi questa situazione, se una persona si fa seguire da un professionista può stressare fino allo sfinimento appunto il suo consulente finanziario per farsi dare tutte le risposte del caso. Se sì, poi uno distinguiamo, non distinguiamo, perché abbiamo detto promotore finanziario, il promotore finanziario lavora per una banca, per una SIM, per un SCR, e un'altra figura che recentemente si è imposta sul mercato è il consulente finanziario indipendente, e quella è una figura diversa, appunto, dove l'investitore si può far seguire, certo che viene seguito correttamente in materia, perché non ha conflitto di interessi, appunto, quindi guardiamoci intorno e troviamo, cerchiamo, mettiamo, così puntiamo il nostro consulente corretto. E a proposito, continuate a guardarvi intorno e twittiamo in 140 caratteri quello che state vedendo intorno a voi. Allora, Edgar su Twitter intanto ci racconta che dopo 4 anni che non tocca una sigaretta, posso dire che smettere di fumare è stato il suo risparmio, il suo migliore investimento, il suo più grande risparmio. Chi vuoi sentire? La numero 6? Linea 6? La linea 6, Fernanda, dalla provincia di Monza e Brianza. Ah no, scusami, no, sì, però devo dare un'occhiata ai mercati finanziari, qua ci è sfuggito il tempo tempo di mangiare. La salutiamo, salutiamo certo. Fernanda e la traghettiamo insieme a noi a sentire i mercati e poi vediamo se ha capito. Butto un occhio, butto un occhio in borsa. Grazie. A tra poco. Cuore e denari. E siamo tornati insieme oggi, facciamo i progetti per il nostro 2014 e abbiamo in linea la nostra ascoltatrice. Sì, eccoci. La nostra Fernanda dalla provincia di Monza e Brianza. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah e buon anno. Grazie. Buongiorno anche ai suoi ospiti. Ma che carina, buongiorno. Grazie. Io avrei una domanda da porre al dottor Scialdone, dico bene? Perfetto. Certamente. Dunque, io ho un problema, mi è stato diagnosticato circa 4-5 anni fa da un oculista che la mia vista non è 10 decimi ma è 13 decimi. Una super vista. Quindi, porta anche fortuna, 13. Supereroe. Quindi, una super una Fernanda. Bambina, vedevo meglio delle altre bimbe perché ho avuto degli aneddoti che mi confermavano questa cosa, ma io da bambina non potevo immaginare. Solo che adesso volevo sapere dal dottore se col passare degli anni mi comporta dei problemi, perché io inizio già ad avere dei problemini. Cioè? Esatto, quali sono i problemi determinati da una supervista? I problemini che mi si offusca un po' la vista, devo, gli occhiali li porto, due diottrie per leggere, per rammendare, diciamo così, e poi ho un altro occhiale per la lettura, diciamo. Insomma, iniziamo a maneggiare un po' gli occhiali, a perderli, come faccio io, a seminarli ovunque. Vero, e Deborina che te li riporta, perché li trova sulle scrivanie di tutti gli altri. Però ce li ho di tutti i colori. È vero. Dottor Scialdone. La nostra amica ci sta raccontando l'altra faccia, a volte, della supervista. Cioè le persone che hanno una vista d'aquila spesso, non sempre, sono leggermente ipermetropi, per cui sono in grado di focchettare come se fosse un obiettivo, un teleobiettivo, talmente precisamente che vedono meglio degli altri, ma facendo un piccolo sforzo di messa a fuoco che gli altri non riescono a fare. Questo a 20 anni mi dà un gran vantaggio, ma quando ne arrivo a, diciamo, 47-48, adesso non so, la nostra ascoltatrice, ho la mia ipermetropia, quel difettuccio viene fuori e la fatica non ce la faccio più perché non ho più i 20 anni e quindi sono costretto a portare un po' gli occhiali. Non è un problema di malattia, ma solo di piccolo difetto di vista. Essere e benessere. Allora... Ma nonnina, anche i tuoi occhi sono grandissimi, mi dici come mai? Oh, è molto semplice, perché mi servono per vedere meglio il bel visino della mia nipotina. Dottor Scialdone, il nostro modo di vedere il mondo cambia con l'età e non è solo perché l'esperienza insegna e fa diventare più saggi, ma anche perché cambia la nostra vista. Ce l'ha raccontato anche la nostra Fernanda, che ha una super vista, ma il tempo la cambia. Dottor Scialdone, quali sono i problemi che possono intervenire dopo gli ANTA? Dopo gli ANTA. Eccoci qua, cominciamo subito stamattina a fare un esame di coscienza, andiamo. Beh, spesso diciamo, diamo una notizia un po' positiva. Spesso mentre l'ipermetrope si trova a dover portare un po' l'occhiale, il miope invece ha una leggerissima riduzione della miopia. Diminuisce un po' il tono muscolare e un certo difetto di vista viene svantaggiato, un altro invece ne viene avvantaggiato. Insomma, per cui... guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Esattamente. Mi piace. Mezzo pieno di diottrie. Esatto, no, stavo pensando all'immagine del bicchiere, qualche volta si dice porto delle lenti occhiali come spesse come dei fondi di bicchiere quando sono molto profondi. Ci sono ancora le lenti così spesse come gli occhiali? Già, esatto, quelle antiriflesso adesso sono... No, ma adesso si usano quelli, ma da anni, quelli con le terre pesanti. Sono più pesanti fisicamente, ma sono molto più sottili. Ormai quelli di bottiglia non li usa più nessuno. Esatto. No. Vogliamo aiutare i nostri ascoltatori a fare un rapidissimo autovalutazione della loro vista, magari utilizzando proprio gli impegni quotidiani, le attività quotidiane. La lettura è uno splendido test. Quando il libro dobbiamo allungarlo, portarlo sempre più distante, significa che siamo diventati presbiti, ma ci sono delle situazioni situazioni in cui vediamo ad esempio le lettere che facciamo fatica a vederle chiaramente, oppure si compaiono degli aloni, ci affatica in modo particolare la lettura sul libro, ma anche sui tablet, al PC, o ci sono delle situazioni in cui vederci chiaro diventa difficile. Penso ad esempio alla notte, e così Gabriele su Twitter ci scrive che voleva chiedere le cause e rimedi al calo di visione che si presenta di notte, soprattutto alla guida. Insomma, tante situazioni che vi prego di raccontare al dottor Scialdone per trovare una spiegazione, ma soprattutto anche una indicazione. Dottor Scialdone, iniziamo subito a dare un'indicazione a Gabriele. Notte e alone. Notte e alone sicuramente è un difetto di vista su questo, anzi colgo l'occasione per dire che è troppo facile vederci bene in città di giorno, dove conosciamo le strade, gli oggetti sono sempre i soliti, ci arrangiamo. Ci sono tante persone che dovrebbero portare gli occhiali, ma se ne fregano allegramente, perché tanto comunque, bene o male, casa supermercato, supermercato casa, le cose vanno bene lo stesso, ma è proprio nei momenti di difficoltà, la sera, quando c'è il tramonto, al buio, quando piove, quando non ci vedo bene in queste situazioni, è meglio che vada a farmi vedere, anche per motivi di sicurezza. Ricordo che per avere una patente regolare bisogna avere almeno 8-9 decimi complessivi, quindi almeno 5-6 decimi nell'occhio migliore e almeno 2 nell'occhio peggiore, posto che i nostri occhi siano diversi. All'ordo della lente correttiva? Con la lente correttiva, naturalmente. Tralascio tutti i vari particolari, eccetera. Quindi sono richieste non esagerate per una guida normale in città. Eppure ci sono tante persone che non si rendono conto, oppure, come dire, scotomizzano, fanno finta di niente perché hanno paura che poi gli venga appiccicato. Cosa l'occhiale. Scotomizzano. Ecco. Lo scotoma è una specie di, noi diciamo scotoma per dire un buco nero. Ormai è traduce. Quando io intenzionalmente mi creo una zona in cui non voglio vedere, la scotomizzo. Ho capito. Con Alessandro Gaetani stiamo parlando anche delle cose che facciamo fatica a vedere, oppure non vogliamo vedere quando facciamo i nostri investimenti. E qualche volta abbiamo anche la giustificazione, che è quella dell'età, no? Andando avanti con il tempo magari ci sentiamo più giustificati nel non prendere nella dovuta considerazione anche le modalità con cui investiamo il nostro denaro. Invece c'è Alessandro Gaetani qualcuno molto attento. Per esempio abbiamo un'ascoltatrice, Giovanna da Genova, ottantenne, perché la sua età ce la dichiara apertamente, che chiede di sapere quali sono gli investimenti adatti alla sua età, quindi una persona piena di progettualità, nonostante appunto l'età ormai sia andata un pochino avanti. Però Gaetani, lei tra l'altro fa anche dei corsi, no, alle università della terza età. Che grado di interesse c'è intorno alla materia finanziaria in questo periodo della vita? Sì, io qualche anno fa mi sono accorto che c'erano diverse ricerche, per esempio di Banca d'Italia, che ci dicevano che gli anziani, i pensionati sono risparmiatori e quindi sono attori economici attivi nel nostro paese, come l'ottantenne che ci sta parlando. Nel caso della signora ottantenne, io direi che l'obiettivo è la difesa del risparmio, la difesa dei denari che stanno da parte, quindi un libretto di risparmio, quindi uno strumento difensivo, un conto corrente su cui avere, perché quella è un'età in cui c'è necessità di avere denaro prontamente, facilmente liquidabile per quindi, qualunque motivo. Se arriva un consulente finanziario che propone un fondo di investimento che punta sui mercati emergenti in Cina, in India o in altre zone, appunto con l'ampia risposta negativa. Esatto, arrivederci, grazie. Abbiamo avuto nel passato degli esempi di questo tipo, con anziani che erano stati coinvolti in polizze finanziarie pericolose. Un po' non troppo trasparenti. Un altro ascoltatore invece, Gaetani, le chiedo di commentare anche il comportamento di questo nostro amico che ci scrive: mi sono reso conto che non riesco a risparmiare, ma so onorare i debiti, quasi come se il debito fosse l'unico modo per accantonare e investire bene i soldi. Tivo, non so se ha scritto correttamente il suo nome l'ascoltatore, come dire, deve sentirsi un po' obbligato anche a risparmio il nostro amico che ci scrive al 349 238 6666, ma facendo per esempio un piano di accumulo o altri strumenti si preleva questa somma direttamente dal conto corrente, anche quello diventa qualcosa da non fare, come dire, proattivamente, in sostanza, no? Sì, l'indebitamento è uno degli strumenti anche per di risparmio forzato. Lo stesso mutuo per la casa è una forma di risparmio tratto da un indebitamento, ci si indebita per pagare la casa e per mettere da parte somme che altrimenti sarebbe fatica a mettere via. Insomma, e quindi ognuno la vede un po', giustamente, allineandomi al tema di questa mattina, come come meglio crede. Allora, andiamo a Paolo che ci chiama dalla provincia di Fermo e poi a Luigi dalla provincia di Verbania. Paolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buon anno. Buon anno e complimenti per la trasmissione che è sempre compagnia per tutti noi. Grazie Paolo. Senta, niente, io faccio una domanda sul discorso della vista. Mi è capitato questo. Da qualche mese ho perso la mia integrità visiva, per cui ho perso una diottria e per leggere da vicino ho dovuto mettere degli occhiali. Dopo che ho messo questi occhiali è successo che, almeno questa è la mia sensazione, di vedere un po' peggio da lontano. Sì. Questo in coincidenza con l'inserimento degli occhiali da vicino. Volevo capire, sentendo il dottore, se c'era qualche legame. Se c'era un nesso. L'inserimento degli occhiali. Adesso vede bene da vicino, ma vede male da lontano. E insomma, non si può avere tutto, si potrebbe dire, ma no? Secondo me il nostro ascoltatore può avere tutto. Nel senso che qui c'è tanta psicologia del vedere. Lui dice ho perso la mia integrità. In realtà presumo da quello che dice che mettendo l'occhiale corretto lui ci veda bene. Solo che probabilmente siccome è stato abituato per tutta la vita che essere sani vuol dire non portare gli occhiali, adesso che è venuto fuori questo difettuccio di vista che è, come si diceva prima, un portato degli anni, la cosa, come dire, altera la percezione del sé, lo fa vedere allo specchio diverso, non sì. Sono più sano. In realtà basta che si metta un occhiale, preferibilmente per esempio un bel progressivo che gli fa vedere sia lontano che vicino, se lo mette su e lui vede dovunque per bene, basta trovare le soluzioni giuste. Lui si trova probabilmente in quell'età in cui la capacità muscolare degli occhi non è più quella di una volta e questo deve adeguarsi insomma sostanzialmente agli anni, tutto qua. 800 24 00 24, adesso andiamo a vedere, no, a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Torniamo allora subito dopo insieme. Filippo Aureggi che regia la parte tecnica e che ringraziamo, ci guarda con attenzione. Sì, ci marca stretto, ma fa bene. Cuore e denari. Una monetina a te, una a te, un'altra monetina pure a te, così fanno tre. Una monetina per questa serata che non può finire. Eh sì, poco più che monetine magari molti di noi non hanno in questo momento. Noi ridiamo, scherziamo e cerchiamo di affrontare temi complicati con leggerezza anche per aiutare molti dei nostri ascoltatori ad affrontare un periodo un po' complicato come quello attuale, perché Nicoletta, lo sappiamo, molti problemi di salute ma anche molti di lavoro, e però insomma non è mai troppo tardi anche nei momenti di difficoltà per pensare ad un pochino di risparmio, ed è il tema che stiamo affrontando questa mattina con il nostro Alessandro Gaetani, che è un autore oltre che fa un pochino, posso chiamarla anche un po' consulente finanziario, non le piace Gaetani? Beh, non sarebbe corretto. Però insomma è autore di un blog di successo, economiafamiliare.it. Ci sono tanti ascoltatori che, attirati dai temi che stiamo affrontando questa mattina, ci stanno scrivendo. Anche saluto Massimo Rossi, che è un altro nostro fedelissimo ascoltatore ed è anche lui un consulente, e che ci suggerisce, parlate anche di pianificazione finanziaria, previdenziale e successoria, tante questioni appunto che magari all'inizio dell'anno possiamo, come dire, cominciare ad affrontare, no Gaetani, se magari negli anni passati non l'abbiamo mai fatto, non è mai troppo tardi. Però l'anno nuovo può essere l'occasione giusta per applicarsi e prendersi degli impegni in tema finanziario. Da dove ci suggerisce di iniziare? Beh, sicuramente compratevi un salvadanaio, è una battuta che faccio sempre per iniziare anche con le monetine a mettere da parte. Beh, per esempio c'è da parlare sulla previdenza, no? La previdenza complementare. Recentemente il commissario Covip ci ha confermato che c'è stata una scarsa adesione dal 2007 in poi. La Covip, lo spiego agli ascoltatori, è l'organismo di controllo del mercato dei fondi pensione. Esatto. Però insomma, a mio avviso, e non solo a mio avviso, il motivo per cui c'è stata questa scarsa adesione ai fondi pensione è stato soprattutto per i dipendenti l'obbligo di versamento del TFR. Però vale come idea, no? Un ragionamento oggi nel 2014, a distanza di 7 anni, si può fare, vale a dire, un lavoratore individualmente può vedere se ritiene di aver accumulato un TFR sostanzioso che può essere utile per le sue esigenze future in azienda o presso l'INPS, poi a seconda fondo se è dipendente di un'azienda più o meno grande di 50 dipendenti, e cominciare da quest'anno appunto a versare il TFR maturando. Il TFR è il trattamento di fine rapporto e da qualche anno la legge ci dà la facoltà di versarlo appunto in strumenti di previdenza complementare. Quando c'è stato nel 2007 il famoso semestre del silenzio assenso, molti lavoratori hanno fatto questa scelta, dopodiché è finito questo semestre di semi-obbligo, no, Gaetani, i lavoratori hanno un po' lasciato perdere, peraltro la crisi ha portato anche molti lavoratori negli ultimi mesi, negli ultimi anni, a stoppare i versamenti, un altro problema appunto molto importante da segnalare. Però prima di parlare della previdenza complementare, Gaetani, possiamo un po' attrezzarci per i rapporti economici quotidiani, no? Sì, eh? Deborah sta pensando a me, Alessandro Gaetani. No, che in realtà lei sì, ci fa, ma non lo è in realtà, Sì, no, vabbè, qualcosa l'abbiamo già detto prima, no? Sul fatto dell'attenzione, di prestare attenzione a leggere correttamente la documentazione e quant'altro. Per esempio, quando arriva l'estratto conto della banca, non lo lasciamo lì sotto al telefono, lì con la busta chiusa, cominciamo ad aprirlo, che è già intanto un grande passo avanti, diamogli una lettura. Che dice? Spulciarlo attentamente, magari facendosi un contro estratto conto su un block notes. Ecco, quello di scrivere è fondamentale. Quando uno comincia a scrivere le cose, a mettere nero su bianco le cose, probabilmente gli rimangono più. Si risalta meglio alla vista, ecco, per restare in tema, e aiuta anche a seguire poi un percorso decisionale da portare a termine per quanto riguarda poi i risparmi. E poi tanta attenzione, gli attrezzi, per esempio quante volte ci ritroviamo a fare un versamento, a fare un pagamento e lo facciamo in contanti, al di là degli obblighi di legge, ecco, lasciare una traccia è sempre una cosa positiva, no? Oppure quante volte si sente quell'investitore che ospita il promotore finanziario, il consulente, quello che è in casa, e fa il pagamento intestando l'assegno alla persona fisica, è un errore. Insomma, un po' di ABC, esatto. Sai che cosa facciamo, Gaetani? Oggi inviteremo, e magari poi ci ritorneremo fra qualche settimana, fra qualche mese, invitiamo i nostri ascoltatori a cominciare a scrivere, con la vista che li assiste naturalmente, un diario economico. Che ne dici, Nicoletta? Mi piace, inizierò anch'io. Brava, dai, che è ancora il 7 gennaio, sei ancora in tempo. E soprattutto vogliamo invitare i nostri ascoltatori a raccontarci il progetto del 2014, uno alla volta, come suggeriva Deborah. 800 24 00 24, perché insieme ad Alessandro Gaetani vi daremo delle indicazioni per raggiungere l'obiettivo. Dottor Scialdone, Alessandro Gaetani diceva che scrivere nero su bianco aiuta, no? Aiuta a vederci chiaro, ma è vero, è un consiglio che potrebbe dare anche lei come oculista, non so, vero? Di scrivere nero su bianco? Sì, sicuramente, e soprattutto di guardare il nero su bianco. Lei prima ha invitato gli ascoltatori a fare qualche prova. Sì. Ecco, io direi una delle prove, superati i 50 anni, è di mettersi l'occhiale per lettura, per vicino, una bella luce, un quaderno a quadretti, il cruciverba, il sudoku, un occhio per volta, e guardare fisso, a distanza di una trentina di centimetri, un punto centrale che abbiamo fatto col pennarello nel sudoku. Se abbiamo qualche problema alla retina dell'età che avanza, dopo circa 30 secondi di occhio fisso sul punto, vedremo una parte della griglia del sudoku che si deforma come magicamente. È una magia non positiva, perché se la griglia si deforma è meglio farsi andare a vedere, perché vuol dire che c'è qualche alterazione, magari non grave, qualche sciocchezza alla retina. Questa è una prova piccola ma importante, perché la deformazione arriva molto prima di quanto qualsiasi oculista si possa rendere conto. Quindi il punto fa diagnosi ancora prima dell'oculista. Esatto. Questo mi piace. 800 24 00 24. Luigi della provincia di Verbania ci sta aspettando da tempo ed eccoci qua per lei. Buongiorno. Ma non ci sgriderà, Luigi, perché ci vuole bene, vero? Certo, buongiorno a voi, signori, i vostri ospiti, e buon anno a tutti, anche ai radioascoltatori. Grazie. Volevo un'informazione dal vostro esperto in oculistica, dal dottore. Io sono entrato ormai nel 2014, farò 64 anni a settembre, e sono sempre stato dall'oculista, perché ho sempre avuto dei problemi, anche da piccolo non mi era stato diagnosticato, ed era un problema a scuola quando facevo i disegni, e quindi c'era sempre dei problemi perché non riuscivo mai a mettere a fuoco le cose. poi con delle visite la cosa è stata risolta. Adesso porto occhiali bifocali, sono miope e presbite, però ogni due anni io faccio dei controlli e l'oculista trova sempre qualcosa che non va bene. Volevo sapere se la mia vista avrà praticamente un decadimento continuo oppure dopo un certo periodo si potrà fermare, perché ad esempio l'anno scorso ho rifatto gli occhiali, vedevo bene come si chiama il video sul televisore, sì, quando ci sono le didascalie o nei film in lingua eccetera, però dopo magari un anno o qualcosa del genere ecco che non riesco più a vedere bene. Volevo sapere se è un decadimento proprio della vista oppure un problema magari dell'ottico che non riesce a centrarmi bene quelle che sono le mie lenti bifocali. Grazie Luigi. A voi e buon anno a tutti. Dottor Cialdone, ma io non ho capito bene dal nostro ascoltatore se aggiustando gli occhiali poi torna a vedere meglio, cioè come dire, se queste diottrie che lui cambia sono temporanee, poi cambiano, poi le sistema, poi ricambiano eccetera, oppure se comunque anche se bene. Non vede bene, perché queste naturalmente sono due situazioni diverse. Esattamente, nel primo caso potrebbe essere che lui possa avere un iniziale cataratta, cioè una vista in cui le diottrie vengono adeguate progressivamente e io non riesco a starci dietro perché ogni volta cambiano, tendenzialmente è un problema di questo tipo, un'iniziale cataratta. Che, lo ripetiamo, lo conosciamo tutti, è questa opacizzazione del cristallino. Esatto, la lente interna dell'occhio che ci permette da giovani di mettere a fuoco e che quando siamo presbiti non ce la fa più. Esattamente. Dell'altra situazione, ovviamente, non avendo lo specifico, non si può commentare. Non c'è un decadimento fisiologico grave come lui teme normalmente, cioè con l'invecchiamento diminuisce un po' la sensibilità retinica. Chi non ricorda che quando aveva 5 anni leggeva quasi al buio e i genitori o il nonno gli diceva: ma come fai a leggere così che io non ci... No? Sì. E questo è sicuramente la diminuzione fisiologicamente col tempo, ma questo non vuol dire non vederci. Li abbiamo invitati a scrivere su Twitter, lo stanno facendo. Ho trovato una parola tra le tante che stamattina il nostro professore ha citato, ancora più difficile di spread, che è cheratocono. Sì, le risulta familiare a me per niente. Certo. E c'è questo ascoltatore Marco che ci scrive: sono astigmatico con cheratocono, posso operarmi? Abbiamo dedicato tra l'altro al cheratocono una patologia specifica delle intere puntate che potete riascoltare anche sul nostro archivio. Apriamo una breve parentesi, sì, perché è una malattia che deve essere diagnosticata con tempismo. Esatto. Dottor Cialdone. Diagnosticata con tempismo perché è una malattia tendenzialmente delle persone giovani, per non dire dei ragazzi. È una malattia evolutiva in senso peggiorativo, la cornea si deforma progressivamente e quindi assume, come se io avessi una lente da occhiale di plastica e la storcessi, a quel punto l'immagine mi diventa illeggibile. Ecco, quali sono i segnali che dovrebbero un astigmatismo in aumento, cioè comincio a, ho di solito spesso 16, 18, 20 anni e comincio a vedere, ci ho sempre visto bene, poi a un certo punto comincio a vederci un po' peggio. Vado dall'ottico, dall'oculista, quel che sia, e mi dice: ma certo che lei è leggermente astigmatico. Sì. L'astigmatismo è un difetto di nascita congenito, quindi se mi viene un astigmatismo quando sono adulto qualcosa non quadra. Qual è l'esame che permette di fare diagnosi? Beh, forza l'esame di vista, della vista, e da solo non ce la posso fare, non c'è discorsi. Però metto in evidenza per il cheratocono una cosa importante: da 5-6 anni c'è una terapia che si chiama cross-linking che blocca il cheratocono, lo, fra virgolette, congela. Ed è molto importante perché permette di evitare per molti anni il trapianto. E allora, se siamo rimasti congelati intanto davanti all'estratto conto di fine anno e, come dire, abbiamo, sulla base di quello che ci è successo, fatto questo buon proposito, voglio vederci chiaro nelle mie finanze del 2014. Restate con noi. Esatto, perché affronteremo questi vostri desideri, non so quanto desideri, questi un po' obblighi, no? Che abbiamo di tenere sotto controllo le nostre finanze. Allora io chiedo ad Alessandro Gaetani di predisporre mentalmente una risposta alla nostra Adele, gliela daremo nella seconda parte del programma, perché il suo obiettivo del 2014 è investire la liquidazione di suo marito, è vedova da 4 anni, questi soldi sono in un conto corrente, vorrei ricavarne una rendita sicura. Obiettivo del 2014 di Adele, vuole vederci chiaro su questo, gliele risponderemo tra poco. cuore e denari. Quando leggi ti viene il mal di testa, vero? Sono quei manuali sulle macchine straniere che mi fanno venire il mal di testa, questo è sicuro. Potrebbero essere gli occhi, dovresti farti controllare la vista, Fonzie. Ehi, l'ha detto anche Ralph ieri. Cercherò di prendere un appuntamento per te dal padre di Ralph. Sì, purché non mi metta un cucchiaio in bocca e non mi dica di fare... No, non credo che ti farà questo, al massimo ti metterà un paio di gocce negli occhi. È tutto qui? Se è per due gocce ci vado, ma non di più, Io me lo ricordo questo episodio di Happy Days con Fonzie, poi bellissimo tra l'altro con gli occhiali quando stava se li mise. Benissimo. Stava bene, sì. Ma dottor Cialdone, andiamo dall'oculista solo quando abbiamo un problema di vista, ad esempio che abbiamo gli occhi che lacrimano, vediamo le famose macchioline, oppure dobbiamo correggere di nuovo, no, gli occhiali. In realtà voi dite bisogna andare dall'oculista anche in assenza di sintomi e di segnali. Ci sono dei controlli che sono delle tappe fondamentali. Ma ci sono anche dei segnali, di cui lei ne ha accennato un paio, che ci devono spingere ad andare dall'oculista a farci dare una controllata. Dottore. Le tappe sono sicuramente dopo i 45. Ora, siamo ancora lontani. Esatto. Guardate. Una cosa che non ci riguarda. Altro che, io lo scavalco quest'anno, questo obiettivo. E quindi in quell'occasione che cosa ci misura l'oculista? Beh, in è l'occasione sicuramente collegata al fatto che cominciamo ad avere fatica da vicino. In quel caso ci misura soprattutto la cosa più importante, a parte la vista, gli occhiali eccetera, la pressione dell'occhio. Ecco. La pressione degli occhi, perché il glaucoma, che è una patologia come dire silenziosa, ma micidiale, comincia di solito in quell'età lì, 45-50. Il ladro silenzioso della vista viene chiamato. Esattamente. Il nostro cervello è in grado di amalgamare per il nostro bene quotidiano tutti i difetti dei campi, del campo visivo, quindi se il glaucoma ci sta rovinando, ci sta, come dire, tagliando dei pezzi di mondo, il nostro cervello non ce lo fa vedere per molto tempo. Ma un aumento della pressione oculare può aiutare l'oculista a fare diagnosi e va misurata. E a darci la terapia giusta. 800 24 00 24. Vogliamo sentire un ascoltatore? Sì. Ritorniamo ad Alessandro Gaetani con la nostra Adele che va aiutata a gestire la liquidazione appunto di suo marito. Sì, chi vogliamo sentire? No, perché non li vedo un attimo. Paolo? Da Pisa, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Auguri. Auguri anche a lei, buon anno. Senta, io ho 40 anni. Che devo dire, è una bella età. Magari tornare un po' indietro. Sono abbastanza soddisfatto. Sento. Sono un portatore di lenti a contatto da circa più di 20 anni. È miope? Sì, sono un semplice problema di miopia, però non gravissimo, si aggira intorno ai 2,50-2,75 indicativamente. E sono sempre stato... Ma lei mette anche, Paolo, quelle colorate o solo... No, dicono subito no. Sì, poi li troviamo appiti nei prossimi giorni, questi uomini che dicono di non essere... Essere sincero, le ho provate, però. Eccolo. Di che colore le ha provate? Le ho provate in separata sede di azzurre. Cosa vuol dire in separata sede? Se non l'ha detto a nessuno? No, esatto. Esatto, chiaramente. No, ma comunque no, non ho questi vezzi. Però diciamo che ho sempre avuto l'intenzione di togliere la miopia facendo un'operazione, però sono sempre stato molto pauroso e scettico delle conseguenze e delle quindi vuole vederci chiaro, ma andare con i piedi di piombo, tra l'altro. Esatto, perché con gli occhi non si Allora, un velocista, Buanni, si è operato agli occhi, correva con 3 gradi di miopia, l'ha fatto di recente questa operazione perché la miopia lo svantaggiava fortemente nell'analisi delle volate, portandolo a commettere degli errori, come ad esempio lanciandosi troppo presto. perché faceva fatica a distinguere la linea del traguardo. Allora, il nostro Paolo da Pisa magari non è ciclista, ma si chiede: e mi butto, faccio l'intervento? Dottor Scialdone, ci sono dei requisiti. E poi a volte, come abbiamo sentito anche dai nostri ascoltatori, si sentono persone che non sono così soddisfatte dell'intervento. A volte sarebbe stato meglio tenersi gli occhiali. Sì, beh, certo, questo, come dicevo prima, succede o dovrebbe succedere in una parte significativa dei casi, cioè desiderare la correzione non vuol dire essere sempre la persona giusta per. Sicuramente è difficile trovare controindicazioni, cioè motivi per non correggere una miopia da 3 diottrie. Il principale motivo invece per farlo è: lo voglio fare, oppure mi conviene professionalmente. Buanni doveva correre, perfetto. Deve anzi mi domando come aveva fatto finora, perché con 3 diottrie il massimo fuoco, cioè tutto ciò che è oltre il mezzo metro, comincia a sfocarsi. Quindi però lui ce l'ha fatta. E questo vuol dire puntava che spesso sulle gambe più che sulla vista, cioè perché non vedere a 70-80 allora una curva avanti non è bellissimo. Ecco. Ma allora chi esatto. può fare? Lei suggerisce l'intervento nel momento in cui uno desidera farlo? No, ma... momento, io distinguerei però una cosa, che l'oculista è il tecnico esecutivo, quindi dà dei consigli soprattutto tecnici, ma il volerlo fare è un desiderio della persona. Se ho troppa paura, lasciamo perdere, il nostro ascoltatore l'avrà rimuginato per chissà quanti anni, magari aspetta che qualcuno gli dia la spinta, ma se io voglio rifarmi, faccio un altro esempio, il naso, non è che c'è l'obbligo di rifarsi il naso, me lo rifaccio se ho voglia, avrò paura perché anche lì posso avere dei problemi, certo. eccetera. Quindi il mio otorino mi dirà se io sono adatto a rifarmi il naso, ma il superare il salto mentale lo devo fare da solo. Quindi lei dice che se il nostro ascoltatore, che ha 40 anni, se non l'ha fatto fino a questo momento, sicuramente oggi le tecnologie sono anche più sofisticate, certo. e la probabilità di avere un risultato positivo è superiore al 98%. Quindi l'intervento, come dire, con la garanzia assoluta non esiste neanche tagliarsi i calli dei piedi, esatto. Però sono percentuali elevatissime di sicurezza, quindi comunque io, come vede, ci stiamo guardando in radio, non ci vedono, ho gli occhiali, non l'ho mai fatto, ho le mie motivazioni per non averlo fatto, ma è una cosa che riguarda me, non il mio eventuale chirurgo. Certo. Che non ci vuole raccontare. Che cosa? I suoi motivi per cui non fa l'intervento. Siamo serie. Non si fiderà dei suoi colleghi, chissà. Anna ci invita alla serietà, esatto. Siamo serie. Passiamo quindi ad Alessandro Gaetani. Alessandro Gaetani, perché tra l'altro il nostro dottore questa mattina, il nostro dottor Scialdone, ho perso di vista qualche lettera, ha fatto questa associazione prima tra obiettivo della persona e consigli tecnici che gli si possono dare naturalmente. Questo, come dire, è un binomio che si sposa bene anche in finanza. Alessandro Gaetani, torno a lei perché le vorrei chiedere, prima di rispondere alla nostra ascoltatrice, anche di dare le 5 regole, 5 consigli tecnici ai nostri ascoltatori che si reputano, come dire, risparmiatori inesperti. So che lei ne stila e li racconta spesso ai suoi corsi questi consigli. Li raccontiamo brevemente, quindi chiarisci le idee su cosa si vuole dei propri soldi, no? Una sorta di autodiagnosi del proprio risparmio, che cosa se ne vuole fare. Quindi diciamo, porsi un obiettivo è sempre utile, non cominciare a risparmio così tanto perché magari per fortuna si ha l'opportunità di farlo, ma magari porsi contestualmente anche un obiettivo. Certo, tasse e penna, come dicevamo prima, per dichiarare per esempio per iscritto al consulente, al promotore, la propria propensione al rischio, no? E dire io sono orientato per un rischio un po' più elevato piuttosto che zero rischio. Prendere sempre tempo, lo dicevamo anche prima, no? Senza mai andare a sottoscrivere investimenti con la fretta, ma prendersi sempre il tempo giusto. Oppure, come diciamo, lo dicevamo anche prima ancora sulla lettura della documentazione, investire in prodotti, strumenti finanziari che sono pienamente compresi. Questo obiettivo non tanto facile da raggiungere perché tutti hanno comunque un certo grado di complicazione, Gaetani, però impegnarsi, sforzarsi un po' a cercarne di comprendere in termini generali almeno la dinamica, no? La base è che non esiste uno strumento senza rischio. Ecco, un po' come diceva il dottor Scialdone degli interventi. Esatto, infatti una minima probabilità chiaramente di che i temi si intrecciano, Deborah. Abbiamo il numero 5 di consiglio che non abbiamo ancora dato, Gaetani? dico quindi, appunto perché dicevamo prima che non esiste uno strumento senza rischio, oggi più che mai con i problemi di debito sovrano è rischioso per esempio investire in obbligazioni greche. Certo, beh sì, oddio. Diciamo governi che... poco affidabili per la restituzione del prestito obbligazionario. Allora, prima di sentire la domanda di Enrico da Roma, che tocca proprio questi temi, risponderei ad Adele, che poverina, abbiamo lanciato il suo SMS da un po' e quindi vorrebbe chiaramente questo gruzzoletto da parte, la liquidazione di suo marito scomparso. È chiaro che probabilmente le serve per la sua vita quotidiana e deve essere protetto al meglio questo gruzzoletto, no Gaetani? Da dove può partire per fare anche una sana chiacchierata con quello che potrebbe essere il suo interlocutore finanziario? Certo, allora un'autodiagnosi delle necessità proprie e familiari, se ci sono figli per esempio, e quindi dividere eventualmente la somma in diverse soluzioni in base alle proprie esigenze. Se poi invece la somma è libera, voglio dire, in famiglia non ci sono debiti da destinare, non c'è il mutuo da pagare, non ci sono altri prestiti appunto da onorare, non ci sono spese fisse importanti, ma è una somma bella disponibile e liquida, e beh, si può pensare per esempio di farsi fare dei preventivi su una polizza liga di rendita vitalizia. È quella che permette di integrare i redditi futuri da lavoro, da pensione, in questo caso, visto che è la liquidazione di fine l'attività lavorativa, per integrare appunto il trattamento pensionistico. Gaetani, non l'ho mai sentita citare anche negli investimenti, come dire, di carattere conservativo e prudente, il titolo di Stato italiano. Una scelta precisa o lei proprio non si fida? Quindi no, obiettivo 2014 stare alla larga dal BTP, che tra l'altro assolutamente no, per le somme disponibili possiamo dire che già i titoli di Stato, passando da un bot semplicissimo per un anno piuttosto che un BTP a 3-5 anni, perché la nostra Adele ha bisogno magari di una piccola rendita integrativa, magari una piccola quota di questa liquidazione investita in un BTP che le dà una cedolina, non potrebbe essere proprio una cattiva idea, che dice? Dicevamo in prima battuta. Va bene. Nicoletta, e altri ascoltatori? Andiamo a Roma, c'è Enrico che ci aspetta. 800 24 00 24. Vi ricordo che questo è lo spazio per le vostre telefonate, per scavalcare la barriera rosa. Chissà come ci vede quest'anno la nostra Rosellina al centralino, ma anche le altre nostre colleghe. Un giorno le facciamo intervenire in diretta, le facciamo conoscere ai nostri ascoltatori. Sicuramente. Enrico. Anche lei, un nome bellissimo. Sì, certo, sì. Un po' metallico. Da dove sta chiamando? Da una caverna, no? No, assolutamente no. Meglio adesso. Dalla macchina. Ci dica. Senta, io ho 63 anni. E ho investito parte dei miei risparmi accumulati negli anni lavorativi, naturalmente, al di là di essere naturalmente proprietario di casa, anche una seconda casa, in fondi obbligazionari e in parte in azioni, non proprio azioni, SICAV. Allora, in questo momento di estrema dove i tassi sono molto bassi e l'inflazione è molto bassa, c'è un rischio che nel futuro i fondi possano perdere di valore, e quindi che cosa sarebbe meglio e qual è l'area di intervento futura? Enrico, aspetti lì, perché io credo che la prima domanda che le potrà fare per vederci chiaro nel suo quesito il nostro consulente è intanto se ha fatto una buona diversificazione geografica, perché l'inflazione è bassa qui nel vecchio continente, in altre aree del paese probabilmente ha un andamento diverso, così come i tassi appunto sono molto bassi in Europa, così come negli Stati Uniti, Gaetani, ma come dire, non in tutto il pianeta c'è la stessa situazione. Se ha diversificato, niente paura. Se è stato fatto alla base una diversificazione corretta. E quindi, insomma, lei quali altri aspetti approfondirebbe con il nostro Enrico da Roma, che vuole vederci chiaro sull'andamento in prospettiva dei suoi investimenti? Beh, intanto capire un attimino in che paese è stato fatto l'investimento. Anche i fondi comuni ormai sono diventati trasparenti, si sa dove e come hanno e come hanno investito, soprattutto per quanto riguarda quanta percentuale che è stato investito in un posto piuttosto che in un altro, sia per proteggersi dall'inflazione ma anche dai rischi dei rendimenti più bassi. Poi tra l'altro adesso sono molto bassi, no, questi temi che lui ha affrontato, i tassi e l'inflazione, ma non è che potranno rimanere così in eterno, probabilmente il periodo sarà ancora molto lungo, ma non eterno, Gaetani. Quindi in Europa la crescita economica è da molti anni bassa. Speriamo in futuro che si riparta, altrimenti le opportunità bisogna raccoglierle al di fuori dal continente vecchio. Quindi Enrico, faccia una cortesia, se vuole sapere qualcosa di più magari ci dia qualche elemento un po' più dettagliato di questi investimenti, perché così insomma possiamo fare un quadro estremamente generico. Quindi Enrico può scriverci, esatto, a Cuore Denari @radio24.it. Non ricordiamo quasi mai il nostro indirizzo e facciamo male, però gli ascoltatori ci trovano lo stesso e noi siamo contenti. A proposito di investimenti, dottor Cialdone, quanto è giusto investire per un paio di occhiali? Perché le lenti costano un botto, Sì. O no? Dipende. Beh, solitamente sì. Però sono anche un po' un vezzo qualche volta, Beh, ce ne sono di bellissime. È vero. Ma voi parlate di lenti o di... Io sto parlando di lenti. Voi invece parlate di montatura. Perché guardate la mia, che è magnifica. È vero, quella tua verdina di oggi è proprio carina. Sarà fatta in Cina. Può darsi. Oramai molte cose. Allora, una cosa di cui molti hanno paura è se paura o hanno un po' di, come dire, di incertezza, è se acquistare gli occhiali premontati, cioè quelli già pronti, soprattutto per la presbiopia, sia corretto o no. Allora, se li compro in un negozio regolare, hanno i requisiti minimi qualitativi per essere portati, previa controllo della vista per vedere se i due occhi più o meno hanno le stesse diottrie. Negozi regolari sono, secondo lei, ottici, farmacie, certo. A volte si trovano anche quelli di emergenza, anche al supermercato. Al supermercato si trovano, vanno bene? Sì, hanno quel minimo. Quelli lì, diciamo, sono fragili, ma otticamente hanno una qualità sufficiente per poter essere usati, non durano molto, però. L'altra cosa da cui vorrei mettere un po' in guardia è la qualità dei progressivi, che è l'altro versante, cioè gli occhiali che vanno bene sia per lontano che per vicino. Un occhiale di buona qualità ottica non può costare meno di 250-300 euro, non è materialmente possibile, tecnicamente. Poi ce ne sono anche da 1000 e in quel caso io pago anche la montatura piuttosto che altre cose. Ma ha senso investire così tanto? Cioè, 250 lei dice, non sotto i 250. Beh, è orientativo. Ecco. Orientativamente, certo. Ma non perché non siano progressivi, ma perché usano molto spesso tecnologie vecchie. Quindi non c'è l'applicazione di cose più raffinate. E quindi la qualità della vista, se uno si accontenta, va bene anche così. Insomma. Poi, insomma. 800 24 00 24, avete ancora ben 5 minuti di tempo per tempestarci, se volete, di telefonate, ma anche di messaggi al 349 238. Ti faccio già ridere che mi impapero questa mattina. Andiamo a Roma a sentire che cosa succede a Roberto. Roberto, buongiorno, benvenuto, auguri, grazie. Grazie anche a voi, auguri. Buongiorno. Dunque, il problema mio, come appunto anche i precedenti ascoltatori, è la miopia, una grande miopia. Differenza di diottrie tra i due occhi, un meno 10 e un meno 18. Ultimamente, 2 anni fa, l'oculista ha notato anche uno stafiloma a quest'occhio ultimo. E quindi ho preoccupazione di dover condurre uno stile di vita attento, come evitare un po' troppo uso eccessivo il computer, mettere più le lenti a contatto possibilmente per vedere in maniera ottimale, visto che gli occhiali sono un po' insufficienti. Ecco, qualche consiglio, anche la ginnastica oculare, che nessuno mi consiglia, dicono che un po' di bodybuilding all'occhio potrebbe anche aiutare. Noi abbiamo proprio iniziato, Roberto, la trasmissione con la ginnastica oculare, dicendo guardare lontano aiuta non solo a progettare il nostro futuro, ma aiuta anche la salute dei nostri occhi. Abbiamo parlato di questi occhiali con i buchini, occhiali scolapasta, come li ha definiti il dottor Cialdone. Servono o non servono? Ci sono queste ginnastiche, il palming suggerito dal dottor Cialdone per riposare gli occhi affaticati. Ma dottor Cialdone, uno stile di vita che aiuti a preservare e a proteggere la vista? Allora, parte anche dall'alimentazione, questo lo sappiamo. Sì. Bello, lo stile di vita. La prima cosa che io mi domanderei è se il mio oculista mi ha detto che se la mia retina da miope è a posto, cioè se ho dei fattori di rischio specifici miei, la retina troppo sottile, dei buchetti, eccetera, eccetera. Se non ho questo tipo di cose, i miei occhi sono leggermente più delicati di quelli degli altri, ma ci sono fior fior di cose che posso fare nella mia vita, non ho grandissime limitazioni. Certo, non consiglierei di mettersi a fare il pugile, la box, piuttosto certo. che altre cose strane. Però posso sciare, posso andare in giro, posso fare quello che voglio. Le lenti a contatto sono assolutamente consigliate perché la qualità di vista che danno ad un miope così elevato è totalmente differente dagli occhiali. Però almeno togliersele la sera quando arrivo a casa per lasciar passare l'ossigeno che all'80% viene dall'aria, che se ho la lente a contatto su c'è una riduzione del passaggio di ossigeno. Detto questo, evitare il fumo sempre. Ma il fumo si evita per definizione anche per la vista, no? E soprattutto anche una dieta non fa bene solo alla vista, ma in generale ricca di antiossidanti. La carota aiuta, no? A vedere bene, si diceva un tempo, ma anche perché insieme a tutte le vitamine, agli antiossidanti che sono stati oggetto anche di ricerca. Sono comunque da preferire tutte le verdure verdi a foglia verde. Mangiate la foglia, andiamo a Fernanda dalla provincia di Venezia. Guarda, se mi permetti andrei al volo a sentire prima di Fernanda, che avrà un secondino di pazienza, Sergio da Cuneo, perché vuole vederci chiaro su un fondo di investimento, giusto Sergio? Sì, vabbè, velocissimo, grazie. Che stiamo chiudendo, grazie. Io faccio un investimento annuale, no? Sì. 1.000 euro, no? Per esempio solo la parola, diciamo, del promotore, no? Io come faccio a verificarlo proprio di persona, di un terzo, cioè tipo via internet, proprio che io acquisto veramente? Certo, ma non le porta nessun documento questo promotore, Sergio, perché intanto comincerei un attimino a stressarlo su questo, no? Non le rende chiaro? Io gli chiedo sempre un estratto, lui me lo dà. Lo porta. No? Però non so... Vuole fare la prova del 9 lei, Sergio? Bravo. Allora andiamo rapidamente a Gaetani se vuole darci un suggerimento per il nostro Sergio. Io credo che attraverso internet un andamento appunto su questo fondo lo potrà trovare, no? Certo, una ricerca del fondo specifico, ma anche poi verificare se il promotore finanziario, se è correttamente iscritto, se lavora per la banca proponente. Però lui dice insomma che Sergio ha regolarmente un rapporto con questo promotore che gli consegna una documentazione, però Sergio vorrebbe fare un controllo individuale. Però insomma io credo che mettendo su internet il nome di questo fondo le informazioni le trova. Se non ce la fa Sergio, scrive a noi e le troviamo noi queste informazioni. Fernanda, non riusciamo, la chiamiamo magari in privato e così la aiutiamo direttamente. Grazie ad Alessandro Gaetani, al dottor Cialdone, a Filippa Oreggi in regia, alla parte tecnica, Marco Lombardi, a Laura Vanossi in redazione, Deborina. Ti vedo chiaramente, che sei molto impegnata con me oggi pomeriggio. Molto, e mi fa piacere. Ai saldi. Buona giornata. Ai saldi, no, dobbiamo lavorare. Abbiamo già dato. Esatto, siamo morigerate. A domani, buona giornata.